Ma guarda, io sulla giornata di ieri poi ti racconto tutto quello che c'è da raccontarci, ma anche ero lì. Però io partirei, per parlare della giornata di ieri, partirei da quello che è successo a Genova in tutta questa settimana qua, perché secondo me non si può, è tutto collegato, il discorso dello sciopero in porto per i traffici d'armi, che abbiamo bloccato la nave, tutta quella storia lì, lo sciopero generale che c'è stato ieri, che ha tenuto fermo il porto per tutta la giornata, uno sciopero di 24 ore, sono tutte cose collegate e molto spesso, e poi fino ad arrivare alla giornata di ieri ovviamente, sono tutte cose collegate e secondo me in molti casi le persone sono anche state le stesse, è stata proprio una città che è stata attraversata da questi tre momenti qua, che hanno veramente colpito, soprattutto il discorso del porto, delle armi, tutto quello che è venuto fuori, chiaramente uno sciopero generale del porto, quando si blocca comunque tocca la città in tanti punti, perché la blocca, la paralizza completamente, poi comunque uno sciopero importante che non parlava soltanto di portualità, noi abbiamo provato ad arricchirlo anche con altri temi, sul discorso dei decreti di sicurezza, su tutto quello che succede, senza dimenticare le navi, quello che era successo il giorno prima sulle navi della guerra, sulle navi che vengono tenute fuori dai nostri porti, cioè tutta questa roba qua è andata anche un po' a impattare sulla giornata di ieri. Sulla giornata di ieri era chiaro, quello che era successo era chiaro, io credo che, questa è la mia opinione, ieri ha coinvolto tutti, ha coinvolto trasversalmente veramente tante persone che sono anche molto differenti tra di loro. In piazza c'erano persone di una certa età, persone che magari hanno vissuto anche, ma non ti dico gli anni 60, così, c'erano tantissimi ragazzi, quello che ha stupito veramente, quello che mi è rimasto più impresso, i tantissimi ragazzi che magari per la prima volta scendevano in piazza, per la prima volta sentivano l'odore del CS, mentre noi sto CS qua quasi ormai non c'è quasi più effetto. Loro veramente capivano quello che succedeva, imparavano, si muovevano, ti chiedevano, è stato pazzesco. Poi sono stati scontri duri, è stata una giornata che noi volevamo, una giornata di contestazione durissima, Genova non dimentica chi sono i fascisti, non dimenticherà mai, li odierà sempre, ci opporremo sempre a questo tipo di cose qua. Poi comunque a Genova ormai è già un po' che le cose contro i fascisti esistono, c'è l'assemblea antifascista che comunque su questa cosa qui lavora ormai da anni, loro sanno perfettamente che ogni iniziativa, non ci sarà un'iniziativa loro senza che ci sia una risposta, poi le risposte possono essere come quelle di piazza come ieri, grosse, di massa, realmente di massa, e poi le risposte possono essere anche di altro tipo, sappiamo benissimo di cosa parliamo. Comunque loro non avranno mai cittadinanza in questa città, qui lo sanno perfettamente, agiscono, sono telecomandati o da Milano o da Roma o da altri interessi. Sì, non sono radicati qui, sono pochissimi. Il problema loro è che se fossero soltanto qua non ci verrebbe manco in mente di prendere in considerazione. È invece quello che hanno intorno, ecco, invece obiettivamente in altre città sono più forti, comunque il loro immaginario è questo, non è l'immaginario genovese che è quello che è. Benché comunque a Genova i fascisti ci sono sempre stati, hanno sempre tenuto la testa bassa, ma ci sono sempre stati. Due temi che emergevano anche ieri mentre ne parlavamo, prima che poi ci fossero gli scontri, erano il fatto, uno, che comunque era da molto tempo, veramente da molto tempo, che a Genova non ci fosse un comizio pubblico, quindi in uno spazio pubblico da parte di forze neofasciste, e l'altra era quella della totale indifferenza, se non compiacenza, che c'è stata da parte dell'amministrazione. Sulla prima cosa noi abbiamo un po' la memoria corta, in realtà se prendiamo come esempio il famoso 30 giugno in cui provarono a fare un comizio il 30 giugno con quello che è successo, non è proprio così. Almirante con l'MSI, con tutto il suo contorno, che poi qui a Genova poi erano passati tutti in terza posizione, perciò il portato dell'MSI genovese nel 70 nei primi anni 80 faceva dei comizi in piazza della Vittoria, portava in piazza migliaia di persone, perciò non è proprio vero sta cosa qua, è ancora una cosa giornalistica. Con Genova l'MSI comunque raccoglieva certo elettorato, faceva le loro iniziative, Almirante forse erano anche peggio di questi qua, o comunque quelli che li giravano intorno, perciò questa roba qua va un po' più precisata. Casa Pound ha provato l'altra volta la commemorazione di Venturini, di mettersi tutti insieme per questa commemorazione, lanciarla prima, anche lì ci sono stati scontri, di Tafferù, se ne sono dovuti andare via con le macchine sfondate, via discorrendo, stanno provando, sicuramente ci stanno provando, e ieri hanno fatto questa cosa qui in una piazza Corvetto, è piazza centrale di Genova, è una piazza vicinissima a Piazza De Ferrari, una piazza molto importante, la piazzetta in cui loro facevano questa roba qua io non sapevo manco che esistesse, tanto per dirtene, è una piazzetta piccolissima, loro saranno stati una ventina, 25, c'erano più bandiere che persone, ma la forza di Casa Pound e degli altri gruppetti neofascista Genova è questa, riescono a diventare visibili, a dare un'immaginario che a volte può anche turbare, quando si mettono tutti insieme, quando chiamano gente da fuori Genova o comunque dalla regione, in quei momenti lì quando si concentrano danno un immaginario che in realtà in città non esiste. Sul fatto dell'amministrazione non ci stupisce. Questa amministrazione qua, non credo il sindaco, che secondo me il sindaco su queste cose qui cerca sempre di stare molto, molto così, ma è contornata da gente che con Casa Pound, ma anche con l'Altazione, ci ha fatto pezzi di campagna elettorale, ci ha fatto riunioni, ci ha fatto cose. Perciò sì, in questa giunta ci sono personaggi sia di Fratelli d'Italia che della Lega che hanno rapporti stretti sia con Casa Pound che con l'Altazione, e perciò condiziona un po', secondo me, la giunta. Come sindaco, secondo me, io credo che vorrebbe evitarsi queste cose qua. Non lo so se è vero, ma penso che sia un po' così. Tornando proprio alla piazza di ieri, seguendo un po', diciamo, appunto dai social con gli aggiornamenti, abbiamo provato a capire alcune delle dinamiche. Praticamente, correggimi se sbaglio, a un certo punto, verso le 6 più o meno, si è mosso un primo corteo per cercare di entrare nella piazza dove si sarebbe dovuto tenere il comizio poco dopo, e da lì poi sono iniziate le cariche con i fumogeni, però dopo è stato proprio circondamento, diciamo, del corteo, portando anche a svuotare Piazza Corvetto, e poi è stata ripresa solo dopo. Sì, sostanzialmente sì, il corteo veramente minimo, sono stati veramente pochi passi, perché Piazza Corvetto è una piazza abbastanza grossa, era già completamente invasa dalle persone. Tieni conto che c'erano due concentramenti, uno lanciato da Genova Antifascista che riguardava il movimento, il nostro movimento, quello che è, e uno più sotto la prefettura che c'era AGL, immagino anche il PD, così, che era più sotto. Diciamo che quando Piazza Corvetto è stata invasa dalle persone, arrivare alle grate, arrivare all'aria, erano veramente 100 metri. Io penso che il corteo, chiamiamolo corteo, questa massa di persone che si è mossa, ha anticipato per la rabbia, era nell'aria da qualche giorno, ha anticipato ogni tipo di ragionamento, ogni tipo di organizzazione, è stata una cosa immediata. Quando si è arrivati alle grate, la gente, così, ha incominciato veramente a non poterne più, poi insomma, i video lo dimostrano, di lì è iniziato tutto. Sì, polizia e carabinieri hanno provato a più riprese a prendersi Piazza Corvetto, non ci sono riusciti, hanno spaccato, non era un corteo ma era una piazza, sono riusciti a spaccare la piazza una volta sostanzialmente, ma è stata poi abbastanza prontamente ripresa, tant'è vero che comunque sul finire Piazza Corvetto era più piena di prima, e tutti veramente, anche persone che comunque non si parlano da anni, eravamo tutti insieme senza nessuna distinzione, le cose sono state fatte da tutti, e quando dico da tutti, proprio da tutti, non c'è stata nessuna polemica post, è stata una giornata di lotta molto alla genovese, noi siamo fatti così, abbiamo tanti difetti ma abbiamo anche qualche pregio, quando è il momento di tirarci sulle maniche ci tiriamo sulle maniche, poi magari per degli anni non ci parliamo, ma quando c'è il momento di tirarci sulle maniche ce le tiriamo su un po' tutti. Punto, ti chiedo solo ancora una cosa, perché poi stamattina si sono tenuti due processi per direttissima, ti chiederei come sono andati e anche come è andato il presidio in solidarietà che si teneva di nuovo questa mattina. Ok, prima del presidio c'è stato il fatto che il corteo di ieri sera, quando la piazza è stata ripresa, ha chiesto la liberazione dei due compagni, poi in corteo siamo andati sotto la questura. Sotto la questura si è parlato con i vertici della questura per farci rilasciare i ragazzi subito. Subito sembrava che fosse una cosa impossibile, in realtà poi sono stati di parola, intorno alle 11:30 sono stati accompagnati a casa e sono stati poi stamattina ripresi e riportati in tribunale. Il presidio che abbiamo fatto stamattina sarebbe stato anche molto numeroso, il problema è che spostavano di ora in ora la cosa, perché essendo un giorno lavorativo, tra chi andava a lavorare e chi aveva impegni si è un po' sfilacciato, ma i numeri che sono passati sul presidio erano buoni. Abbiamo aspettato due ragazzi che uscissero senza tante manfrine, l'importante è che potessero tornare a casa più presto, e comunque è andato bene, è stato un bel segnale anche quello.